Archimede, tra passato e futuro, di Maurizio Melis. La corrente di casa vostra. Dal mezzo di queste tenebre, una luce improvvisa mi illuminò. Cambiare i poli da positivo a negativo e da negativo a positivo. Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita. Io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente la materia inanimata! Sì! Può fare! Buongiorno, buongiorno e benvenuti ad Archimede. Quello che avete appena sentito era Mel Brooks in Frankenstein Junior, un capolavoro del cinema tradizionale che è anche la parodia di un altro capolavoro, quello autentico di Mary Shelley, Frankenstein. Siamo nella seconda metà dell'Ottocento e siamo dentro a una grande suggestione popolare che è la scoperta dell'elettricità. Soprattutto il pubblico rimase affascinato quando si scoprì che l'elettricità era implicata in qualche modo nella vita biologica, e questo già a partire dagli esperimenti sulle rane famosissimi di Galvani. Insomma, siamo in uno di quei momenti storici in cui inevitabilmente si aprono scenari, si immaginano scenari che vanno anche al di là del possibile. Non è facile stabilire un momento preciso per questo giro di boa storico dell'avvento dell'elettricità, ma è probabile che i miei ospiti saranno d'accordo con me se scelgo il 1881. Lo scopriamo subito. E sulle note del ballo Excelsior, composto nel 1881 e che celebra la vittoria della luce sull'oscurità, vi presento Fabio Toscano, benvenuto ad Archimede. Grazie, buongiorno. Storico della scienza, autore di numerosi libri che personalmente io consiglio, ci dica velocemente l'ultimo titolo ed editore. L'ultimo titolo è La formula segreta, l'editore è Fironi di Milano. Va bene, c'è anche l'ingegner Michele De Nigris con noi questa sera. Michele De Nigris è direttore del Dipartimento di Tecnologie per la Trasmissione e Distribuzione dell'ERSE, che è l'ente di ricerca sul sistema elettrico. Buongiorno De Nigris. Buongiorno a voi e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Allora, dicevamo 1881, Toscano. Che cosa succede? È d'accordo con me, diciamo, nel battezzarlo, chiamiamolo così, l'anno dell'elettricità? Ma sì, direi di sì. Nel 1881 si svolge il primo congresso internazionale degli elettricisti, l'esposizione dell'elettricità, insomma, che si tiene a Parigi, e rappresenta il grande trionfo di Thomas Alva Edison, che aveva, diciamo, messo definitivamente a punto la sua lampada a incandescenza due anni prima, nel 1879, un anno emblematico fra l'altro perché a Ulm nasce un bambino di nome Albert Einstein. E sta di fatto che, tornando al 1881, questa grande esposizione dell'elettricità segna veramente il nuovo avvento, diciamo, della luce elettrica che nel giro di pochi anni farà scomparire l'illuminazione a gas. C'è anche proprio una forte valenza simbolica, per questo anche queste musiche, insomma è un po' il momento in cui l'umanità esce dall'oscurità, è l'uscita dal buio che era durata, insomma, fin dagli inizi della storia dell'umanità. Le città erano estremamente buie prima della corrente elettrica. Esattamente, siamo stati probabilmente fortunati a nascere in un'epoca dove la luce elettrica c'era già da molto tempo, ed effettivamente facciamo un po' fatica a immaginarci il buio che imperava, infatti, sul mondo prima di quest'epoca. Nel 1881 effettivamente coloro che si trovarono a Parigi rimasero letteralmente abbaccinati dai nuovi prodigi elettrici. C'erano le ferrovie elettriche, insomma, che in pochi istanti trasportava gli ospiti dentro il palazzo dell'esposizione, e dentro il palazzo c'era questa grande sorpresa nell'entrare di notte in questo grandioso edificio che era illuminato da centinaia e centinaia di lampade elettriche. Insomma, possiamo immaginare quale fosse l'impatto su chi non aveva mai visto cose di questo genere. Sta di fatto che inizialmente tutto sembra avviato, ci sono le prime centrali che buttano fuori questa corrente continua, poi spiegheremo meglio di che cosa si tratta, ma a un certo punto, come capita spesso quando una nuova tecnologia esordisce dal nulla, succede qualcosa di imprevisto. Sentite un po'. Here, Mr. Edison. As you see, this is a rotating magnetic field. Well, what's it for? This is alternating current, Mr. Edison. Alternating? Yes. Questo era Tesla, anzi è Tesla, lo sentite ancora sul fondo, mentre cerca di convincere Edison a convertire le proprie centrali da corrente continua a corrente alternata. Edison non si lascerà convincere, sta di fatto che entra in scena questo personaggio che noi oggi un po' celebreremo, che è Tesla. E Toscano, che cosa succede a questo punto? Succede che nella, diciamo, seconda metà degli anni 80 dell'Ottocento Tesla entra in contatto con Edison, inizia a diventare suo collaboratore a New York, e gli propone di trasmettere la corrente elettrica alternata, insomma di fornire abitazioni, industrie e quant'altro con la corrente alternata anziché con la corrente continua che aveva usato Edison fino a quel momento. Ma Edison rifiuta, chiede a Tesla semmai di migliorare i suoi apparati a corrente continua. Tesla lo fa. Poi c'è un litigio tra i due, mm-hmm. e alla fine succede che Tesla abbandona Edison, lavora invece in collaborazione con un altro inventore statunitense, George Westinghouse, che insieme Tesla e Westinghouse si dedicano, insomma, a perfezionare gli apparati a corrente alternata, e scoppia questa vera e propria guerra delle correnti, perché un po' testardamente Edison continua a sostenere l'esigenza di continuare a usare la corrente continua, lancia anche una campagna diffamatoria sulla corrente alternata, ma alla fine avrà la peggio. Ecco, addirittura questa è la circostanza in cui credo un assistente di Edison inventa la sedia elettrica. Sì, succede questo, che Edison, proprio per screditare la corrente alternata, insieme a vari collaboratori conduce spesso davanti a giornalisti degli esperimenti anche macabri con la corrente alternata ad alto voltaggio sugli animali, ed è proprio questa serie, come dire, di elettroesecuzioni che in breve porta all'introduzione e all'uso della sedia elettrica. Ecco, tra l'altro, a proposito di elettroesecuzioni, in realtà credo proprio alcuni uomini di Edison, che poi a un certo punto uscì anche dalla compagnia, tentarono di coniare il termine Westinghousing per intendere l'esecuzione. Quindi diciamo che il marketing all'epoca non guardava in faccia a nessuno. Senta, De Nigris, corrente continua, corrente alternata, che cosa cambia? Qual è la differenza? Ma sono due modi di generare e poi anche ovviamente di trasportare e distribuire energia elettrica. La corrente continua è un modo di generazione nel quale la polarità della tensione si mantiene o sempre positiva o sempre negativa. Nella corrente alternata invece la polarità continua ad oscillare tra un massimo positivo e un massimo negativo, per intendersi 50 volte per ogni secondo. Certo. Nei nostri sistemi, quindi oscilla molto molto velocemente. Ecco, per fare un esempio, intanto la corrente alternata a 50 Hz, appunto 50 oscillazioni al secondo, è esattamente quella che ci arriva in casa, la corrente continua la producono le pile. Ecco, non so se un esempio del genere potrebbe andar bene, De Nigris, me lo dica lei. Possiamo immaginare che la corrente continua è un fiume, come dire, acqua che arriva con uno scorrere continuo, appunto abbastanza indisturbato, e invece fare il paragone con le onde del mare che ci portano queste ondate di acqua appunto a fiotti. Sì, si può immaginare in questo modo, anche se poi in realtà gli effetti della corrente alternata in termini poi operativi sono ben diversi. Certo. rispetto a quelli della mareggiata. Non c'è dubbio. Ecco, De Nigris infatti vince la corrente alternata in questa competizione, vince questa guerra delle correnti, ma perché all'epoca la corrente alternata, perlomeno all'epoca appunto, risulta superiore? Ma direi che dall'epoca, quindi dal 1883-1884, che è il periodo di cui stiamo parlando adesso, fino ad adesso la corrente alternata ha avuto veramente la parte del leone nella generazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica. Che cosa mancava sostanzialmente a Edison? Mancava un po' innanzitutto un caso su cui lavorare, nel senso che lui aveva essenzialmente un carico di illuminazione, un'illuminazione in bassa tensione per svolgere la quale aveva bisogno di generatori vicino ai carichi, e cioè non doveva trasformare la tensione a valori più elevati. Ecco, perché bisogna spiegare questa roba, diciamo che quando si trasporta energia elettrica, più è alta la tensione, meno dispersioni ci sono, senza entrare nei dettagli. Le nostre linee in alta tensione arrivano a 380.000 volt. Sì, certo, effettivamente in corrente alternata si trasforma il livello di tensione a un livello di tensione molto più elevato. Si trasporta l'energia anche a distanze notevolissime e poi si ritrasforma la corrente ad un livello di tensione che è quello dei carichi, ed è esattamente quello che succede nel nostro sistema elettrico. Ed è più facile, soprattutto all'epoca era molto più facile, trasformare la tensione usando una corrente alternata, perché basta un oggetto relativamente semplice che si chiama appunto trasformatore. Senta De Negris, un'ultima curiosità, ma poi è vero che la corrente alternata è più pericolosa della continua? Ma direi sì e no. In realtà i valori di corrente che sono pericolosi per l'uomo sono molto più bassi in corrente alternata rispetto alla corrente continua. In corrente continua gli effetti si generano a valori di corrente più elevata, però in realtà poi quando si generano gli effetti durano molto molto di più. Va bene, a questo punto mi fermo, Archimede torna fra pochissimi minuti, giusto il tempo di capire come va il traffico. Archimede, tra passato e futuro. Bentornati ad Archimede, siamo alla fine dell'Ottocento e nella guerra delle correnti, come abbiamo appena spiegato, la spunta la corrente alternata perché è più facile per l'epoca soprattutto da produrre e trasportare. Oggi però si ricomincia a parlare di corrente continua e in realtà l'applicazione più utilizzata della corrente continua è proprio nelle linee di alta tensione, cioè quelle su cui Edison subì la sconfitta, come abbiamo visto. De Negris. Che cosa è cambiato rispetto all'epoca di Edison? È cambiato il fatto che adesso disponiamo di dispositivi di elettronica di potenza molto sofisticati e molto performanti. In realtà adesso con la corrente continua e attraverso l'elettronica di potenza possiamo fare quello che Edison non sapeva fare, e cioè cambiare il valore della corrente per portare a livelli di tensione quanto più elevati possibile per poterla portare molto lontano. Quindi, premesso comunque il fatto che una linea aerea in corrente alternata è per livelli diciamo di potenza da trasportare e per livelli diciamo di distanze medi è comunque la soluzione che anche oggi rimane più economica. Nei casi in cui avessimo da trasportare delle grandissime quantità di corrente o di potenza, oppure dovessimo trasportare energia su grandissime distanze, cosa che per esempio sta succedendo adesso in Cina, in Brasile, in India, dove abbiamo dei grossissimi impianti di generazione idroelettrico molto distanti rispetto alle città, rispetto alle zone industriali nelle quali questa potenza andrà utilizzata. Il mezzo più opportuno per trasportare questa quantità di corrente è proprio l'altissima tensione continua. L'altissima tensione continua, che non richiede stazioni intermedie, perché l'alternata richiede questi accorgimenti. Poi mi pare di aver capito che soprattutto quando si fa una linea sott'acqua la continua è nettamente superiore. Beh, al momento in cui abbiamo un cavo sottomarino e la lunghezza del cavo supera qualche chilometro, direi, diciamo una ventina di chilometri, è assolutamente importante, anzi è indispensabile andare in corrente continua, dato che non possiamo mettere alcuna stazione di compensazione in mezzo al mare per compensare certo. la corrente che si chiama reattiva sarebbe necessaria per un collegamento in corrente alternata. Cioè sono diciamo delle altre correnti che circolano e non si vorrebbe che circolassero dentro questi cavi quando si usa l'alternata. Esattamente. Tra l'altro ecco, diciamo che il tema della rete oggi è molto forte, si parla di smart grid, si parla addirittura di reti o di grandi cavi in superconduzione. Come mai c'è tutto questo interesse per le reti? Beh, l'evoluzione delle reti è veramente un aspetto assolutamente fondamentale oggigiorno. Abbiamo visto la necessità di diversificare fortissimamente il campo di generazione, quindi introdurre generatori con fonti rinnovabili, con fonti anche molto variabili come il vento, il sole, eccetera. Senza evoluzione della rete non ci sarà la possibilità di utilizzare queste fonti nel modo più appropriato. Senza le reti intelligenti che permettono di adattarsi momento per momento alla situazione, non sarà possibile utilizzare generatori come i generatori eolici nei quali a un certo momento il vento c'è, il momento dopo il vento diminuisce, certo. E quindi è fondamentale il fatto che si possa flessibilizzare il sistema. Ci vuole una rete che sappia far girare l'energia istante per istante come serve. E a proposito di evoluzione delle reti, in Italia diciamo che la rete si unifica solo dopo il 1962. Ascoltate un po' e capirete perché. La Camera ha approvato la legge che nazionalizza l'energia elettrica. Da secoli, ogni giorno, il piccolo paese rinnovava i gesti tradizionali. Ogni giorno la stessa fatica. Ogni giorno gli stessi gesti. Ma un giorno, quasi per incanto, nacque ai piedi della montagna una centrale elettrica, portando nel piccolo paese la sua formidabile energia. E beh, insomma, avete capito che cambiamento di atmosfera in questo paesello quando arriva l'energia elettrica. Siamo negli anni 60, tutto va bene, insomma, l'alternata conquista anche l'Italia. Poi arriva un'altra rivoluzione, arriva l'elettronica. E qui la corrente continua comincia a riprendersi la rivincita. Perché, De Negris? Perché molti carichi che ci sono nelle nostre case in realtà funzionano in corrente continua. Ecco, lei dice carichi, è un linguaggio, è un gergo tecnico per dire insomma apparecchi che consumano energia elettrica. Sì, il nostro computer all'interno ha un alimentatore in corrente continua, il forno a microonde, tutta la parte di controllo che abbiamo in casa. Quando abbiamo qualche dispositivo elettronico o qualche dispositivo informatico sotto la corrente continua c'è sempre. Senta, io mi sono divertito a fare un piccolo elenco, perché c'è una ricerca dell'Enea, mi sembra che questa la dica lunga, secondo la quale abbiamo in casa circa 40 trasformatori in ogni famiglia. I trasformatori servono appunto a riconvertire la corrente alternata in corrente continua. Uno dice 40 sono una enormità. Ho provato a fare un po' di elenco: computer, stampanti, scanner, fax, router, modem, telefoni cordless, radiosveglie, stereo, riproduttori di CD e DVD, piattaforme multimediali per i videogiochi, faretti, quelli alogeni a basso voltaggio, tutti gli strumenti, gli aggeggi che hanno una batteria, telefonini, smartphone, scope aspirapolveri, gli standby degli elettrodomestici. È veramente impressionante. Si hanno mediamente 150 watt di consumo senza fare andare niente, solo per questi trasformatori attaccati dentro le prese dell'Ingris. Sì, è vero, indubbiamente la trasformazione di corrente è una trasformazione che impegna anche perdite, eccetera. Però se uno alla sua lunga lista aggiunge la controparte, cioè la generazione, in realtà non abbiamo solo tanti carichi in corrente continua, ma abbiamo anche tanti possibili generatori fotovoltaici, le celle a combustibile, tutto quello che ha dentro una batteria di alimentatore, certo, che indubbiamente lavora in corrente continua. Ecco, allora, De Nigris, abbiamo detto abbiamo generatore di corrente continua ormai dentro casa, molti utilizzatori. Qual è lo scenario che a questo punto si prospetta? Ci toglieranno l'alternata? Ma sicuramente no, non ci toglieranno l'alternata, perché comunque la corrente alternata serve per i carichi grossi, i grossi elettrodomestici, motori, eccetera, eccetera. Quello che si potrebbe immaginare è di avere una doppia alimentazione, cioè all'ingresso di casa un convertitore alternata continua con una rete di distribuzione in casa in aggiunta alla rete in alternata che possa andare ad alimentare tutti questi carichi direttamente collegati o anche i generatori direttamente collegati su questa rete. Teniamo conto del fatto che risparmieremmo spazio perché non avremmo i trasformatori, avremmo un'efficienza superiore perché non avremmo l'efficienza di conversione, non avremmo le perdite di conversione, avremmo una sicurezza anche più elevata. Perché la tensione sarebbe più bassa, certo. Molto più bassa. E ovviamente riusciremmo anche ad avere una qualità della tensione, una qualità dell'alimentazione anche piuttosto interessante. Che allunga la vita, per esempio, dei dispositivi. Senta, ma allora dov'è il problema? Il problema è essenzialmente legato al costo, perché chiaramente avere un doppio circuito costa ed è legato al fatto che bisogna mettersi d'accordo tra tutti i costruttori di apparecchiature elettroniche per avere lo stesso livello di tensione. Noi sappiamo che tutti gli alimentatori, telefonini piuttosto che computer, escono tutti con una tensione continua che è diversa uno dall'altro. E beh, questo anche perché altrimenti i vari produttori non riuscirebbero a vendere i propri trasformatori, perché non c'è una buona ragione per cui le cose stiano così. Dunque, a questo punto io cambierei proprio argomento, proviamo a spingere lo sguardo ancora più in là, stavamo parlando di trasformatori, cavi, cavetti, vedrete che c'entra, e per farlo ritorniamo a Tesla, il genio incompreso, questa volta a colloquio con Westinghouse, sentiamo. Possiamo mandare l'energia, tutta l'energia, al guscio esterno della Terra. Energia dal mare, dal vento, energia dal sole. Non ci sarà più bisogno di bruciare e distruggere nulla. Basterà prendere quello che già c'è per dare a tutti energia in quantità illimitata. Beh, insomma, avete sentito, io sono davvero impressionato perché parliamo dell'inizio Novecento al massimo e Tesla, insomma, ha una visione incredibilmente avanti per i tempi. Dice possiamo prendere l'energia dal sole, dal mare, dal vento e distribuirla in quantità infinita. Lui addirittura pensa di trasmettere l'energia attraverso l'aria, confidando che uno strato dell'atmosfera particolare, la cosiddetta ionosfera, la tenga dentro nell'atmosfera e tutti potrebbero attingere a questa fonte di energia. Ovviamente Westinghouse, che vende energia, non è molto felice di questa proposta, tanto che due in questa circostanza rompono. Ma Tesla ha anche in mente una soluzione precisa per realizzare il suo progetto, ovvero quella che ancora oggi si chiama bobina di Tesla. Che cos'è, De Nigris? Allora, è una specie di colonna con un elettrodo sopra. Una sfera, di solito? Con un elettrodo, una sfera, che permette di generare in alta frequenza valori di tensione molto elevati attraverso un cosiddetto circuito risonante. Cioè, in pratica, da questa testa sferica partono dei fulmini. Si riescono a generare dei fulminetti che possono andare in giro per la stanza a milioni di volt. Ecco, è noto che se ci si avvicina a una di queste macchine con una lampada al neon, volgarmente detta, fluorescenza in mano, si accende, mentre la persona non subisce nessun tipo di danno. Per questo Tesla pensava si potesse fare. Ecco, oggi in realtà questo scenario della trasmissione dell'energia wire, cioè senza utilizzare dei fili, è qualcosa di più che un sogno, ci stanno lavorando seriamente. Sì, sulle bassissime distanze è possibile già ora utilizzare sistemi di questo tipo, ricaricare la batteria di un'automobile a qualche centimetro di distanza è possibile farlo. Sulle distanze più elevate, come potrebbe essere per esempio la volontà di ricaricare la batteria del mio computer attraverso diciamo una rete wireless di potenza, vi sono alcuni studi però attualmente ancora a livello di laboratorio. laboratorio di fisica. Una curiosità, uno di questi esperimenti hanno acceso un LED a 1,5 km, qualcosa del genere, di distanza. Senta, c'è un progetto di cui ogni tanto si parla ed è quello di mettere queste grandi centrali fotovoltaiche in orbita che sparano un fascio di microonde sulla Terra, ma è possibile, insomma, si può fare una cosa del genere? Ma sa, si può fare, sono tutti scenari molto molto futuribili, con la tecnologia attuale, quindi proprio quella delle microonde, non vorrei essere un uccellino o un aeroplano che attraversa il raggio. neanch'io. Senta Toscano, io direi che possiamo chiudere dicendo come va a finire la storia di Tesla. Beh, finisce male perché gestì molto male il suo denaro, per cui morì in completo isolamento in una stanza d'albergo a New York, però ecco, diciamo che la storia della scienza poi ha dato il giusto credito al suo nome. Ha dato a Tesla quel che era di Tesla. Possiamo concludere così, grazie a Fabio Toscano, grazie a Michele De Nigris, l'appuntamento è per settimana prossima.